Il musalli torna in posizione eretta dicendo Allahu Akbar, assume la posizione di recitazione e ripete le recitazioni, assume le posizioni ed esegue i movimenti della prima rak'a fino alla fine della giaculatoria della seconda prosternazione.